Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Qualcuno che considera questo ciclo finito, perché la mia sensazione è che tutto sia già deciso. Io sono ragionevolmente certo, poi naturalmente mi sbaglierò, del fatto che Conte andrà via, dove non si sa, e questo è uno dei punti da contendere, perché non ha offerte reali e credibili ad altissimo livello. Conte partirò. Ho indovinato, no? Cioè, una volta che ho indovinato, Franco Piantini, autore di questo programma, rimarca questa, fa riascoltare questa mia frase. Avevi indovinato, Conte va via tra un anno, ma va via. Poi non mi dite che insomma è una scelta definitiva, decisiva. Ha ragione Sara, nostra fedelissima ascoltatrice, che via SMS scrive: Conte e la Juve sembrano una coppia che dopo anni di matrimonio decide di stare insieme perché non saprebbe dove andare a dormire, a vivere. Poi ci sono gli amici in comune, c'è da dirlo ai parenti che non capirebbero la scelta. Se è un problema di spazio, c'è Chiellini che affitta appartamenti, vedi Immobile, come sapete, vivi in affitto dal signor Chiellini. Ahimè, io da Juventina, scrive ancora Sara, sono preoccupata sui programmi futuri. Anche perché in Italia uno spogliatoio con un allenatore che si sa già che partirà è estremamente difficile da gestire. E quindi, ragazzi, avevo indovinato, Sara stravince. Non può essere che così. Davide Schettoni, redazione. 800240024 è il numero verde per intervenire. E io oggi voglio chiedere soprattutto agli juventini, ma insomma trasversalmente a tutti, se questa decisione vi sembra giusta. Vorrei soprattutto sapere se c'è qualche juventino critico nei confronti di questo tweet che ha cambiato l'umore della maggior parte, della stragrande maggioranza del popolo bianconero. Non sono neanche serviti tutti i 140 caratteri. Stagione 2014-2015, allenatore Antonio Conte, ieri sera poco dopo le 8:30. Intanto poi ci sono anche altre notizie oggi, che non c'è mica solo la Juventus, perché finalmente quella vicenda che ha appassionato tutti, e dopo gli innumerevoli appelli via social network di cantanti, musicisti, attori, politicanti, pornostar comprese, alla fine il Bari se lo compra Papa Resta per 4,8 milioni di euro questa mattina l'asta. E dunque Gianluca Papa Resta come portabandiera di una cordata che rimane ancora fantomatica. Non si sa chi fa parte di questa cordata di salvataggio della Bari. Papa Resta ha detto: al momento della firma dell'atto notarile saprete tutto, per il momento non si sa nulla, si sa solo che il Bari ha trovato un proprietario, erano state presentate 4 offerte stamattina, rialzi a colpi di 200.000 euro a botta, e alla fine 4,8 milioni di euro il Bari trova un proprietario dopo aver trovato insomma sul campo ieri sera almeno per il momento i playoff con questo 1-0 al Cittadella, davanti a oltre 35.000 spettatori, che è record assoluto per la Serie B. La primavera barese è meravigliosa e aspetta soltanto il sigillo della convocazione del suo figlio prediletto Antonio Cassano per la nazionale. C'è anche un'altra notizia, mentre parlerà Prandelli tra poco, prima conferenza stampa degli azzurri, ve lo faremo ascoltare naturalmente nel corso del programma. C'è anche un'altra notizia da verificare nel corso di queste due ore, perché è stata indetta una conferenza stampa a Udine, perché a quanto pare Guidolin lascerà la panchina dell'Udinese, non lascerà però l'Udinese, perché a quanto si dice nei piani di Guidolin ci sarebbe un ruolo, e dell'Udinese ci sarebbe un ruolo da direttore tecnico. Scopriremo tutto vivendo queste due ore insieme. 800 24 00 24 è il numero verde, Gianmarco Ferronato in regia, e vi ricordo naturalmente che, come sempre, al migliore in campo di oggi tra i nostri ascoltatori andrà la maglietta griffata a tutti i convocati. Quanto al resto ve lo dico dopo, adesso c'è il traffico. Convocati. Sono molto a disagio, come se io avessi una storia d'amore con Kate Moss e Kate Moss accettasse di andare in vacanza con me semplicemente perché ha firmato un impegno dinanzi a un notaio qualche tempo prima. Alle storie, con le storie d'amore i notai non c'entrano. Pierluigi Pardo, ciao. Buongiorno, come va? Ma Mughini ha una storia con Kate Moss? No. Pare di no. Sicuro? Poi abbiamo indagato qualche minuto dopo la trasmissione, però non corrisposto, ho capito. Il notaio non c'entra. Accanto a me c'è il direttorissimo, come direbbe Parenzo, c'è il professor Mentana, al quale chiedo subito cosa pensa dell'Inter del futuro, eh? È una sua deposizione volontaria. Cosa devo dire sull'Inter del futuro? Che nessuno sa come sarà, quindi devo soltanto sperare che Toir sia anche appassionato oltre che oculato. Aspettiamo di vedere. Non sappiamo neanche se l'allenatore del futuro della rinascita dell'Inter sarà Mazzarri o Mazzarri è il tu vorresti Mazzarri o no? Non lo so se vorrei Mazzarri, perché ovviamente non è scoccata una scintilla d'amore clamorosa, no? Non è Mourinho, no? Non ha fatto nulla per arruffianarsi il popolo, quasi meno che gli arbitri. è così. Da un lato è bello vedere che uno che non ci vuole mai stare, no? Che vorrebbe sempre qualcosa di più. Del resto, visto quello che è stato messo in campo, non è difficile volere qualcosa di più. Quindi la questione è che poi siamo alle prese con l'elaborazione del lutto della fine della Sado, no? Della fine dei grandi campioni argentini che ci hanno consegnato il triplete, capito? A che livelli di qualità, elaborazione del lutto della Sado, vedi che differenza che esiste tra i veri direttori che hanno fatto la storia della televisione e noi due? Cioè, sì. non si fa fatica ad intuirlo, Pierluigi. Lui dice che lo stiamo sollevando troppo e ci stiamo buttando, però perché è un potetto, in realtà è un potetto. Ecco, va bene. Senti, dopo questa carambata, anche dei signori dell'estremo oriente posso dire qualcosa, perché sono appena scesi da un aereo tra l'altro che è atterrato a Cerveteri per questo 26 minuti e non posso chiedere qualcosa su Honda, perché è un volo popolato di figure nipponiche. Senti, allora no. Facciamo così, ci colleghiamo invece con i piani altissimi di Sky, dove c'è Federico Ferri. Ciao Federico. Pronto, ciao. Eccoci. E qui avete avuto un crollo, quindi, rispetto a prima. nessun crollo, nessun crollo. Federico Ferri è... Vabbè. Sono a caccia di juventini critici nei confronti di questa scelta, ma poi avevo indovinato, Conte va via. Cioè, è una conferma di facciata questa. Ed è stata scelta la strada più scivolosa. La Juventus e Conte continuano per inerzia. Nessun rinnovo, vale il contratto inchiostrato un anno fa. Niente rivoluzioni. La Juventus aggiungerà qualche optional alla squadra tre campion. Mihajlovic può tornare alla Sampdoria e tutti vissero felici e contenti. È così, Federico? Parzialmente sì, dico parzialmente. Uno, perché non credo che Mihajlovic sarebbe stato il sostituto di Conte. Due, perché credo si debba aspettare ancora qualche giorno per capire se il rischio è concreto che si tratti di una soluzione di facciata e soprattutto di una soluzione provvisoria, che per una squadra di calcio di alto livello è la peggiore possibile, in questo sono d'accordo con te, sia davvero così provvisoria. Le modalità, questo sì, del mancato rinnovo ma comunque della conferma sono quantomeno curiose e dunque non sono modalità tali da poter garantire, secondo me, a un allenatore, sebbene un allenatore così forte, così integrato nel suo gruppo e così importante per un club, una vita facile in un anno in cui va in scadenza. Sì, ma per inciso chi sarebbe stato? Se non... cioè con Mihajlovic hanno scherzato? No, non credo che abbiano scherzato, ma sai, la Juve aveva fatto firmare un contratto a Benitez, sì, firmare, e sì, poi Agnelli ha deciso di prendere Del Neri con Marotta, sì, quindi sì, credo che ci fosse stato, e poi così come ha deciso di prendere Conte, credo che possa esserci stato un contatto, credo ci sia stato ad esempio anche con Spalletti. Io continuo a pensare che alla fine non puoi sostituire un allenatore come Conte se non con uno che entra in un gruppo con un livello forse di esperienza in più, e io credo che alla fine Mancini sarebbe stato il nome preferito da Andrea Agnelli, però ripeto, questa è la mia sensazione. Io credo che la Juventus non si sia mai davvero posta il problema di superare del post Conte, e questo invece sì è un possibile rischio per la squadra, certo, prossima. Certo, certo, Mancini anche secondo me poteva essere come profilo il nome ideale, esatto, ma tanto eravamo al livello dei colloqui, quindi come fanno gli americani, fanno i colloqui agli allenatori prima di prenderli. Pierluigi, è abbastanza paradossale però per una squadra che fa piani industriali quinquennali andare incontro ad una stagione con un allenatore in scadenza. Sì, ma infatti io credo che la situazione si chiarirà in un senso o nell'altro. Io credo che ieri sia arrivato un tweet importante che in qualche modo stava, perché dopo l'indicazione di Conte la trovo in conferenza stampa, quando disse quella frase, ho ancora un anno di contratto, cioè non ragioniamo sull'idea che io sia in scadenza, ho ancora un anno, quindi c'è un punto fondamentale, io sono, c'è un accordo, una cifra stabilita, un lavoro che devo fare, quindi questo in qualche modo mi ha fatto capire che c'era anche questo tipo di ipotesi. Mi sembra che la metafora del matrimonio così un po' stanco fra coniugi non completamente passionali mi sembra perfetta, nel senso sì, che da un lato Conte che nell'animo è profondamente gobbo, nel senso proprio della passione bianconera, e certamente insomma non, nessuno che potrebbe ritrovare nulla da questo punto di vista, però voglia di un'esperienza magari internazionale, però da quello che mi risulta insomma tanti abboccamenti, tanti spasimanti, ma nulla di concreto. E per quanto riguarda la Juve, stesso discorso, si può anche fare una chiacchierata con Mihajlovic, si può anche mandare un sms a Mancini, però insomma Conte è comunque fino a prova contraria il miglior allenatore possibile per la Juve in questo momento, quindi alla fine questo accordo è il punto di caduta, è un compromesso, è evidente però insomma che quella dinamica che dicevi tu può essere un problema, perché nella storia del calcio, giusto o sbagliato che sia, spesso le squadre che hanno un allenatore in scadenza pagano. Vi ricordo l'esempio clamoroso, sì, Spazio di Eriksson del 2001, che praticamente buttò via tutto il campionato nella prima metà di stagione con l'allenatore che già si era promesso all'Inghilterra. E arrivò Zoff, che fece essenzialmente il minimo sindacale, ma lo fece molto bene, e per poco la Lazio non vinceva quello scudetto che poi vinse la Roma all'ultima giornata. Quindi questo tipo di esempio vale mille volte, certo, volte. Anche certo, il caso di Allegri, anche il caso di Allegri quest'anno, insomma, certo, con basi diverse, ma si rischia la stessa situazione, cioè con la differenza che lì era Berlusconi poco convinto di Allegri, qui la società mi sembra convinta su Conte, e più che altro è Conte che vuole andare via, però il tipo di dinamica che sta venendo fuori rischia di essere è una fiducia condizionata, come abbiamo visto molte volte in passato, Zaccheroni al Milan, dimmi Federico. Se posso, la grande differenza sta proprio nel rapporto di quanto la società difende l'allenatore, perché inevitabilmente soprattutto il giocatore escluso con l'allenatore in scadenza tende ad avere un rapporto in cui si concede qualcosa in più. Sì. Ecco, se la società è fortemente dalla parte dell'allenatore, esempio Bayern Monaco, Heinkes l'anno scorso, si va avanti e si può vincere. In Italia senza questo rapporto forte, secondo me, non si può vincere, e sarà il vero grande problema di Conte dell'anno prossimo. Detto questo, io ripeto, tendo a non credere molto a quello che si sta dicendo in questo momento su questa situazione, perché secondo me c'è qualcosa che non mi torna, non mi torna il modo, il tweet, non mi torna il fatto che nessuno ne abbia parlato, non mi tornano le modalità dell'incontro. Io non vorrei che ci sia una trattativa sotto in corso, una trattativa forse un po' più delicata perché riguarda piani del futuro, magari un'organizzazione societaria, insomma che ci sia qualche cosa su cui stanno ancora trattando ma che si vuole tenere ancora un po' nascosto. Nascosto in attesa della soluzione, ma che comunque bisognava dare una risposta rapida e la risposta è stata data. Per l'anno prossimo c'è. Sì. Poi come non so ancora, e quindi io aspetterei molto, cioè non riuscirei a dare un giudizio fino a quando non avremo le idee chiare. Io al momento sinceramente in questa situazione non ce l'ho. Sì, ma poi è curioso notare come adesso c'è qualche apertura anche del Milan nei confronti di Seedorf. Mazzarri domani parlerà, va verso una conferma ma anche qui condizionata. Curioso notare come in tutte e tre le situazioni, beh, al Milan è tutto da chiarire, da decifrare dopo le elezioni europee. Però sulle tre principali panchine italiane ci siano allenatori con insomma subiudice, con una fiducia condizionata. Del resto, poi saluto Federico Ferri, dal punto di vista di Conte, Van Gaal allo United, Luis Enrique al Barcellona, Blanc resta a Parigi, Pellegrini ha vinto lo scudetto con il City, il Monaco ha preso Jardel, non so se me ne dimentico qualcun'altra, Mondovado, Mondovado. Non c'è dubbio, e c'è una cosa in più, Carlo, ed è la dimensione internazionale di Conte. Io credo che Conte non sia più, come diceva Pier prima, o meglio lo sia nell'animo, ma nell'animo da calciatore della sua storia, gobbo, come diceva Pier. Io credo, penso Conte sia tifi per se stesso e basta, e da allenatore, e per se stesso Conte deve fare meglio in Europa. Prendete Villas-Boas, sì. E secondo me un allenatore nettamente inferiore a Conte, ma ha trovato la via dei grandi club europei per quello che ha mostrato in Europa. Con le prestazioni di quest'anno della Juventus, non intendo soltanto con i risultati, parlo delle prestazioni, sì, chiaro, non si va chiaro ad allenare una grande, non si va, ma anche puoi anche vincere 16 scudetti consecutivi, ma in Europa non ti prendono in considerazione se in campo internazionale non mostri di essere dominante. Certo, vale per Ancelotti, certo, vale per Guardiola, vale per Van Gaal, valse addirittura, ripeto, per Villas-Boas, che poi non ha saputo confermarsi una volta arrivato nelle grandi piazze. Ecco, per quello dicevo, per Conte quest'anno sarebbe stato più importante l'Europa League dello scudetto. Assolutamente. Per sé, per la sua carriera, non per la Juventus ovviamente. Guarda, sono cose che io ho ripetuto fino alla nausea, caro Federico. Sono contento che le dica tu, perché pari pari il mio pensiero, l'ho ripetuto fino alla nausea, finalmente gli ascoltatori lo sentono da una voce diversa dalla mia e da quella di Pardo, che pure è d'accordo su questo punto. Ma in realtà io ho solo copiato te perché ti seguo. Grazie, ciao Fede. No, grazie, ciao Pier. Ciao Federico. Pier sta lì, Gli asiatici come stanno? Adesso sono in taxi, sono a tagliarmi i capelli, un momento tipo, sì, tipo one day in life. Vai a tagliarti i capelli? Sì, a poco. Possiamo fare una radiocronaca del taglio? Dopo ti faccio parlare col Selvaggio, che fra l'altro è uno storico parrucchiere e barbiere di Roma Sud. Tifo dichiarato giallorosso? Ma credo lui sia amico soprattutto di Totti, che fra l'altro frequenta spesso. Guarda, se siamo fortunati oggi troviamo anche dopo Mentana, facciamo anche Totti. Siamo a Roma Nord e andiamo magari a parlare con Candreva, col signor Candreva. Candreva mi sa che è da un'altra parte. Sì, no, appunto, hai ragione, vedi che sto bollito. Andiamo da Lotito. Ti accompagniamo dal parrucchiere. 800 24 00 24, numero verde, dopo la borsa ci risentiamo. Secondo me non prende in considerazione il fatto che un giorno si possa anche non vincere, che però si costruisce ugualmente qualcosa anche non vincendo delle volte. Lui ha proprio questa volontà ferrea di primeggiare. Juve senza Conte è? Una Juve senza Conte in questo momento è un qualcosa di impensabile, ecco, non c'è il misurometro per poter capire i meriti, ecco. È stato secondo me bravissimo ad ottenere il massimo da ogni giocatore. E tra questi mi ci metto anch'io. Tutti convocati. viverla come una grande avventura, sempre, come una cosa bella, come una, un moto dello spirito e dell'anima. Il calcio ha bisogno di aria pulita da questo punto di vista, e loro la possano dare, hanno una grande responsabilità, riguarda tutta l'Italia, però l'importante è che siano proprio sereni e gioiosi, questo è fondamentale, da qui poi viene tutto il resto. L'ho già consolato domenica sera. Sì, no, Ale è un ragazzo, questo è la nostra bella, perché è un ragazzo emotivo, sensibile, l'ha dimostrato la persona che è dentro, e quindi non deve vergognarsi di questo, anzi, per ora è finita, è andata così, è la vita, è il calcio, ha fatto una grande stagione, questo non toglie nulla, dispiace per lui, però ora c'è l'esperienza del mondiale dove sono convinto farà grandi cose. Allora, amen, Don Massimiliano così parlò, il sacerdote che accompagnerà la nazionale. Franco Piantanida ha insistito molto per questa benedizione pastorale, ve la rimandiamo, però vi faccio ascoltare Pierluigi Pardo che è collegato, anzi questa puntata, il titolo di questa puntata è Sulla strada verso il barbiere di Pardo. Non so a che punto siamo. Siamo quasi arrivati alla Montagnola, storico quartiere di Roma Sud, popolare, quartiere popolare, quartiere appassionato, non lontano dall'Eur, da via Cristoforo Colombo, dal mare, diciamo. Sì. E lì si trova il tuo. Sì, guarda, possiamo fare. No, facciamo. Altrimenti quando entro va bene, la facciamo, però adesso la Confindustria dei barbieri. Magari ci sarò delle multinazionali dello shampoo e della, che ne so, più che altro sanno usare bene il rasoio, quindi non vorrei fare arrabbiare. Multinazionali della frangetta che potrebbero risentirsi, no? Allora facciamo così, ti faccio sentire Prandelli, che è stato chiesto: ma non hai paura che la Juventus si sia spremuta troppo in questo finale di stagione? E Criscito, come la mettiamo con Criscito, Cabrini, sta storia? Prandelli, prima parola. Domanda su fine del campionato della Juventus, su eventuale stanchezza dei giocatori juventini. È una domanda un po'... rispondo subito, non mi sembra che quelli che sono rimasti a casa hanno fatto delle finali Champions League ultimamente. Ecco, a parte le battute, ultimamente faccio delle battute infelici e volevo prendere spunto per chiedere scusa della battuta che ho fatto a Criscito sul discorso di Cabrini e di Maldini. Era una battuta fuori luogo, anche perché non volevo entrare nel merito tecnico dell'esclusione, quindi volevo, però come questa battuta probabilmente non mi è riuscita bene. Che dici, Pier? Proviamo a chiamare Criscito? No. Sì, proviamo a chiamare Criscito. Tra l'altro ieri sera c'era dopo quella bella bella amico che ha parlato lungamente a Tiritaga di questa cosa, e beh, io, a me fa piacere. Io devo dire la verità, che comunque nella vita non è che c'è tutta questa gente che chiede scusa o che riconosce un errore. Quindi qua chapeau per il CT, voto 10, insomma, assolutamente, sì, d'accordissimo. Quella battuta, sì, non era felicissima. C'era anche un fondo di verità, evidentemente, no? Nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore che poteva essere chiamato ma poteva essere non chiamato. Ieri sera il suo procuratore ha ribadito che, insomma, il giocatore ha fatto una stagione importante, ha accusato velatamente Prandelli di un po' di provincialismo, nel senso che comunque alla fine forse se questo giocatore fosse rimasto in Italia l'avrebbe visto meglio, con più attenzione. Però insomma oggi voto alto per le scuse di Prandelli. Anche perché la battuta infelice, la stizza, cioè, ci può stare, però hai ragione tu, arrivare lì il giorno dopo, come prima cosa chiedere scusa a Criscito, mi è sembrato una grandissima cosa del CT, in linea peraltro del suo personaggio. Altra battuta di un ascoltatore: Juve senza Conte uguale Buffon senza la Seredova, si sopravvive comunque. Non so se l'ascoltatore vuole chiedere, no, al di là di questo, anche qui per la prima volta Buffon sulla questione ha chiarito tutto, dicendo in questa intervista siamo separati da un po'. È stato molto elegante anche Gigi Buffon, aveva il diritto molto di crearmi... molto elegante, guarda, sì. Mi sembra adesso bravissimo. Anche di questo ieri sera, tra l'altro, il re del gossip, che è il signor Parpiglia, ieri sera, e devo dire la verità che perché Buffon è stato grandissimo. Aveva il diritto di crearmi problemi, che... la leggo magari per chi non lo sapesse. Certo. Siamo separati da un po', aveva il diritto di crearmi problemi e invece ha messo l'amore per la famiglia davanti al suo ego. La ringrazierò per sempre, è stata splendida. Grande. Ma guarda, anche le immagini che avevamo mostrato giovedì nella finale di Europa League e poi anche domenica, io fra l'altro domenica li ho visti anche proprio a 2 metri alla fine, perché erano nella festa, ero sceso un attimo lì mentre ero con il signor Capuano collegato, e insomma sono immagini, quindi anche da vicino, insomma facendo anche per un attimo il guardone, cosa che non mi piace fare. Tutti i segnali parlano però di una enorme civiltà, sì, di una grande eleganza, di un rispetto assoluto che esiste fra i due. Quello che dice Buffon è una cosa rara, eh? Assolutamente. È una cosa rara, cioè avere una persona, uomo o donna che sia, che nel momento di una separazione riesce comunque a conservare lucidità ed eleganza per non mandare tutto a scatafascio, essenzialmente per l'amore nei confronti dei figli e per il rispetto nei confronti di una persona che evidentemente si è amato profondamente. Beh, insomma, chapeau, certo. Ma le dichiarazioni di oggi non mi sorprendono perché non potevano barare. Quando le abbiamo viste in tribuna l'altro giorno, abbiamo visto che comunque c'era un clima di grande rispetto e reciproco, insomma, o erano veramente due attori da Oscar, oppure questo è il clima. No, ma poi trovo anche giusto, al di là della vicenda, che sono sostanzialmente fatti loro, però trattandosi di personaggi pubblici, questo è anche il modo migliore per tirare giù la Kerr di fronte a mille illazioni, a mille pettegolezze, eccetera. Si dice chiaramente con parole molto, molto serene, molto lucide, voto altissimo anche per Buffon. C'è chi invece maliziosamente scrive chi e quanto paga il prete della nazionale, ma non lo so, non so quale sia lo stipendio dei preti, chi lo paga, se la Federcalcio, Pardo o tutti insieme attraverso le tasse, non lo so e francamente non me ne frega neanche nulla. Voglio dire, sinceramente, siamo a questo livello. Marco, dimmi. No, dico, la Federcalcio comunque dire, è un ente chiaramente pubblico, finanziato dai soldi del CONI, ma è un ente che al suo interno ha una serie di persone, di preparatori, di tattici, di pochi, di persone che ci lavorano, insomma non credo che... Ma sì, ma poi chi paga il prete della nazionale? Marco da Milano, buongiorno. Ciao. Ciao. Allora, sulla Juventus e su Conte, sì? Mi pare che sia questo uno degli argomenti. Sì. Insomma, io... sono simpatizzante juventino, devo dire che non sono soddisfatto dei risultati, cioè quello che si diceva prima, gli scudetti sono una gran cosa, ma come amministratore di società immagino che anche il presidente voglio vedere dei risultati economici, per avere questi devi vincere a livello internazionale. La Juventus è una corazzata, è una Bismarck, ma non c'è il comandante giusto. Conte è bravissimo, simpatico, fantastico, magari l'anno 21 mettiamo un altro scudetto, però non è il comandante giusto, ci vuole un professionista abituato a vivere a livello internazionale, sì, con esperienza, e che non costa evidentemente quello che costa Conte, signori, al presidente della Juve. Cioè costerebbe però molto è, di più. È illogico a mettere in piedi una squadra come quella della Juventus di questi ultimi 2 anni, in particolare l'ultimo anno, senza mettere al timone un professionista di più alto profilo professionale internazionale. Sì, e torno a ripetere, sì. C'è anche da dire, termino, scusa per me, che è una corazzata, ma anche perché le flag di Milan, Inter, sono un po' bassine, insomma, le ha tenute a mezz'asta. E da milanese che apprezza la Juventus, che è una cosa un po' rara, devo dire, mi dispiace molto. Mi dispiace molto perché non aver vinto in Europa non mi aiuta a pensare al futuro. Dopodiché sono piemontesini, se hanno le braccine corte, e cosa fa? Invece di mandarlo al disturbo gli dicono sei qui, vediamo che sei tu a darci le dimissioni. Sì, ma no, ma guarda Marco, io ho la sensazione che sia una cosa che vale da tutte e due le parti. Da un lato c'è la Juventus che evidentemente può avere questo retropensiero, dall'altra Conte che non ha grandi offerte, ha un contratto, non vuole rinunciare al contratto. Qualcuno ha scritto anche che la trattativa sarebbe stata Conte alla Juve, pagami metà stipendio e prendi un altro allenatore, la Juve a Conte, no andiamo avanti, il contratto c'è e non abbiamo altre altre idee così lungimiranti. Ma torno a ripetere quanto ha detto Federico Ferrer, che abbiamo ripetuto molte volte, vale da tutte e due le parti anche il discorso sull'Europa, cioè per la Juventus sarebbe stato importante vincere, ma sarebbe stato parimenti importante vincere, no, anche no, per Conte, Conte per la sua dimensione europea di Antonio Conte. Più per Conte. Perché sennò poi non ti chiamano, sennò poi lo United, il Barcellona, no, il Paris Saint Germain, il City, il Monaco, il Bayern, queste squadre non ti chiamano se non hai mai vinto a livello internazionale, è inutile far finta che non sia così. Traffico, e poi sentiamo a che punto è Alessandro da Bologna, sentiamo a che punto è Pardo sulla strada verso il barbiere. Tutti convocati. Chiara, a che punto sei? Ma io sono già dentro. Stiamo cercando di mettere la radio. In questo momento vogliamo metterla in tutto il locale, eh? Ah, sì, per forza. Perché c'è entusiasmo, eh? Entusiasmo. Anche perché io poi continuo a sentirti mentre mi taglio i capelli. Io non ti sento più adesso, però. Mi sa che. Però mi senti, no? Sì. Adesso posso credere, mi senti. Ecco. Sì. Stiamo mettendo Radio 24 a Roma, la frequenza è 107,9? Non lo so, chiedo conferma. 107,9 ragazzi a Roma? 107,9, siamo pronti. Ma non le so tutte a memoria. Non le so tutte a memoria. Non le so tutte a memoria, me le dimentico ormai. Il signor Cruciani le sa tutte a memoria, le sa. Il signor Cruciani legge allo spartito, io no, sai com'è. Alessandro Bologna, buongiorno. Sì, salve. Saluti anche al barbiere di Pardo. Anche al barbiere lavoro da fare a giudicare dal look. Eh? Cosa hai detto? Che io? No, a giudicare da Luca. Chi ha detto a giudicare da Luca? Alessandro? Saluti al barbiere. Ma di ha ragione, ha ragione. È un'impresa di lavoro da fare. Di sboscamento. A giudicare da Luca di ieri sera. No, vabbè. Comunque, io sono juventino e sono felicissimo che Conte resti. E per il rinnovo si vedrà se tempo. Guarda là, per esempio, diceva che non c'erano i tempi tecnici. Comunque, si vedrà, vabbè. C'è ancora tempo per farlo, volendo, se non è ancora deciso. E penso che la stragrande maggioranza degli juventini, a sentire dal mood, la pensi come me. Più che altro mi sembra che ci sia così un po' di sottile rosichio così da parte degli altri, che magari speravano arrivasse alla Juve, non so, uno Spalletti qualunque, uno personaggio così. E comunque sì, vabbè, per il fatto che va a scadenza adesso, sì, in linea teorica magari non può avere qualche controindicazione, però per esempio il caso di Heinkens del Bayern ha dimostrato che se uno sa lavorare bene. Sì, ma mi sembra un caso talmente strano, talmente sui generis, che lo ripeteremo per anni. È forse l'eccezione che conferma la regola da questo punto di vista, e non la vedo così normale, così rosea come la si vuol far passare, Alessandro. Io mi fido molto di quello che ha detto anche prima Federico Ferri, cioè c'è qualcosa che non torna, cioè si incontrano di nascosto, non c'è comunque un comunicato ufficiale, una conferenza stampa, soprattutto non c'è rinnovo, a storia e tempi tecnici credo fino a un certo punto. Pierluigi, 107,9 frequenza a Roma, certo, sì, l'abbiamo messa, ma già la prima, poi qua devi considerare, cominciano la mattina, sentono Cuore e Denari, sentono Mix24, cioè, diciamo che è un parrucchiere che sente soltanto le 24. No, ti volevo dire che sì, in effetti, a pensar male, qua alla fine il tweet di ieri è un tweet della Juve, cioè non è un tweet di Conte, sì, è un tweet della Juve nel quale si fa un riferimento a una cosa che in fondo già sapevamo, cioè che Conte ha un contratto per il 2014-2015, e quindi chi vuol pensare male in queste ore può anche pensare che quello sia un modo per mettere pressione a Conte, come ricordare il fatto che lui il contratto ce l'ha, cioè se veramente lui vorrà liberarsi di questo contratto, poi chiaramente deve farlo, però facendo uno strappo, non attraverso un mutuo accordo tra le parti. No, questo certo. Se si vuol pensare male. Io poi penso, come diceva Federico, che la Juve abbia una società con delle spalle talmente larghe, tutto sommato Conte abbia voglia di rimanere, visto che l'offerta della vita non gli è arrivata, che si troverà d'accordo. Comunque sono qui con Giorgio, che diciamo, tu sei il parrucchiere di Totti, poi Morgan De Santis, e per esempio i capelli di Morgan De Santis come nascono di Morgan De Santis? Ci vuole ringiovanire molto ultimamente, quindi lui ha bisogno di riesce? Beh, tagli corti, gli piacciono corti adesso, perché sembra più giovane, capito? A fine carriera fanno così i calciatori. Invece Francesco ha attraversato varie fasi, ha attraversato la fase del capello lungo, ha fatto varie cose anche abbastanza ardite, no? Sì, e questo è anche in base all'età. Quando sei più giovane i capelli lunghi, quando sei più grande, questi per i vari Battistuta e compagni, mano a mano si accorciano i capelli, appunto per sembrare più giovane. Ecco, ecco, nel mio caso ci sono speranze di svolgere. Innanzitutto, quanto durerà l'intervento chirurgico di oggi? Guarda, nel tuo caso hai ancora poco tempo, poi devi accorciare i capelli anche te, sempre di più, anche se te li porti bene 2 anni. Capito? Una sentenza. Una mazzata. Una mazzata totale. Vabbè, comunque permanente via. Ma che permanente? Permanente Cassano se l'ha fatta. Aspetta, e chiedo una gara. La permanente è quella tutta colorata? No, quella con i riccioli. Cassano è una permanente. Hai notato tu quella roba bionda a Cassano ai tempi in cui sembrava un gettone telefonico? Sì, ha voluto i capelli più chiari, sai, alti, luce, tutto. Diceva, l'ho visto in Puglia, sai, però qui. Non è c'è una certa classe, con tutto rispetto per gli amici pugliesi, che si crede, questa radio nazionale, vogliamo dire una cosa bella nei confronti della Puglia. Certo, tutto a posto. Poi c'è Papalesco che oggi ha comprato la Bari, sì. Grande notizia. Infatti ne parliamo dopo. Dopo il GR ne parliamo. Ha comprato la Bari 4,8 milioni, capo cordata Papalesco, membri della cordata ancora non si sa. Senti, in bocca al lupo e fammi sapere, sono un po' preoccupato. No, mi sa che mi faccio il light, perché non ho capito bene che è, mi faccio il capello... Sono seriamente preoccupato, quindi fammi sapere, mi raccomando, perché ti voglio bene, fammi sapere com'è andata. Sentiamo bene, dopo. È abbastanza perfido aver fatto un collegamento con Genta dal parrucchiere, no? Una cosa proprio, cioè, è come collegarsi con me da un dietologo, più o meno, la stessa cosa. Va bene, ciao Piero, ciao Pardo. Allora adesso al volo le informazioni per gli scommettitori, dritte per gli scommettitori, e poi ci sentiamo dopo il GR. Quote e pronostici. Dopo il giorno di riposo osservato ieri, quest'oggi torna il Giro d'Italia con la 10ª tappa. Si va da Modena a Salso Maggiore Terme, 173 km di completa pianura, tappa adatta per i velocisti. E allora vediamo insieme le quote SNAI per la tappa di quest'oggi. Favorito d'obbligo è Nasser Bouhanni, il francese pronto al tris in questo Giro d'Italia, quotato 2,75. Interessanti anche le quote di Luca Medcek, Giacomo Nizzolo e di Elie Viviani, tutti e 3 quotati 7. La vittoria di Ben Swift invece è quotata 15, mentre quelle di Boisson Hagen e di Tyler Farrar sono quotate 33. Questa sera in campo anche la Serie A di basket. Alle 20:30 2 le partite in programma. Si gioca per la partita tra Siena e Reggio Emilia, con la squadra di casa favorita, l'1. La vittoria di Siena è quotata 1,83. L'X è quotato 2,85. Il 2 invece, con la vittoria di Reggio Emilia sul campo di Siena, è quotato 5. In campo anche Cantù e Roma, la vittoria dei Lombardi, l'1, è quotata 1,78. L'X è a 2,85. Il 2, la vittoria di Roma sul campo di Cantù, è quotato 5,35. Questa era l'ultima quota di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. Lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu rapo, lepo, lepo. Tante 2 ore d'allenamento e tutti hanno ovviamente come primo giorno di scuola, c'è grandissima attenzione, grandissima voglia di mettermi in difficoltà. L'ho trovato sereno perché, come diceva l'intervista, si è rimesso in gioco in quest'ultimo anno e lui ha vinto, perché quando ti rimetti in gioco azzeri un po' tutto, e a quell'età, che ormai è un'età matura, si è reso conto che probabilmente è l'ultima occasione importante a livello professionale. Agora eu vou saber a verdade, se è dinheiro, se è amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta. O meu la scelta di portare Giuseppe Rossi ha vari motivi. Il primo, che ovviamente abbiamo di fronte un talento, abbiamo di fronte un giocatore di una qualità straordinaria, uno dei, secondo me, giocatori più importanti del panorama italiano. la sua determinazione, la sua volontà, quella di recuperare prima, quella di fare mille sacrifici per essere qui, è la dimostrazione che anche i campioni devono mettere tanto carattere in quello che fanno, quindi può essere un esempio, può essere un riferimento per tutto il gruppo. Chiaro che poi ci vuole una condizione, ci vuole una risposta sul campo e noi ci auguriamo in questi 10 giorni di vedere delle risposte, ma se anche non fossero così, comunque lui ha già vinto tutto quello che deve vincere come immagine, come proposta. Non voglio mettergli troppa pressione, non voglio mettergli l'ansia che ogni minuto è lì controllato con una lente di ingrandimento. Lui è uno dei 30 e noi dobbiamo capire se ha una condizione che sia superiore rispetto ovviamente alla condizione di qualche giorno fa. Ho fatto un sogno incredibile stanotte, ma ve lo racconto, è venuto proprio adesso, mi sono ricordato del sogno. No, davvero, l'ho sognato. Allora, ho sognato che c'erano 3 squadre che venivano massacrate perché avevano 3 o 4 espulsioni a partita, gomitate, pugni. La squadra immacolata era la nostra e siamo andati avanti così, è stata una cosa meravigliosa. Mi sono svegliato e ho detto, oh, finalmente una squadra che gioca a calcio e pensa solo a giocare a calcio. Ovviamente parleremo di questo argomento, ovviamente andremo a vedere tutte le immagini. Ho già detto il mio pensiero sulla gomitata, manata, chiamatela come volete, di Chiellini. Per me non è gioco violento, lui voleva soltanto prolungare e proteggere quella posizione perché era un blocco su una punizione. E quindi si è detto che le polemiche sono placate, finiamola qui. Mi auguro che questo argomento non dovremo più toccarlo. Queste parole di Prandelli di pochissimi minuti fa, dunque primo piano per le parole del CT su Cassano, su Giuseppe Rossi, su questo strano sogno che Prandelli ha fatto. 800 24 00 24 è il numero verde per voi. Paolo Milano, buongiorno, grazie per l'attesa. Sì, ciao. Ciao. Dimmi. Ascolta, io volevo fare delle considerazioni su Conte e la Juventus. Sì. Innanzitutto mi riallaccio un po' a quello che sta facendo adesso Paolo. Mi domandavo se anche Conte va la soluzione. Aspetta che non ti faccio fatica a sentirti, Paolo. Non... No, mi ripeti, grazie. Mi domandavo, visto che Pardo è dal parrucchiere. Sì, tra l'altro ho notizia, mi ha appena mandato una foto, credo che la posterà su Twitter, sono sempre più preoccupato, ma comunque questo per inciso. Dimmi. Ecco, mi domandavo se anche Conte va dal parrucchiere, visto che io volevo parlare un po' di Conte. Sì. Tu sai che aveva. Che ha qualche problema con i capelli. Sì, beh, questa storia nota. Ecco. No, volevo fare poi una considerazione un po' più concreta, un po' più seria. Io mi facevo qualche domanda su tutto questo battaggio giornalistico sulla conferma di Conte alla guida della Juventus per il prossimo anno. Cioè, una non notizia, cioè un contratto che viene rispettato e diventa notizia dove... Sì, questo è curioso, ma è una cosa a cui siamo abituati. Tutti i telegiornali ne parlano come se fosse una... è la conferma di un contratto che viene rispettato da due parti e questo diventa un argomento giornalistico. Paolo, lo sai, però questo in valore assoluto è verissimo, no? Ci sorprende la notizia della conferma di un contratto in valore assoluto, hai ragione, da vendere, ma l'abbiamo detto molte volte. Però sappiamo come il mondo dello sport, non solo del calcio, si basi su altre logiche, magari perverse finché vuoi, però è così, e non solo dalle nostre parti. È lo stato delle cose, insomma, è un gioco a cui partecipiamo un po' tutti. Sono d'accordo. Sì. Beh, però, sai, se le parti dicono: beh, è vero che c'è un contratto, però non sappiamo se verrà rispettato o no, non sappiamo che strada prenderemo. Dunque, la notizia nasce da lì, non certo dal fatto che sia stato che si dica: ok, c'è un contratto, lo rispettiamo, perché è ovvio che quella è una non notizia, però. È tutta la vicenda e tutta la storia che ci porta a fare queste considerazioni, come credo sia normale. Anzi, sentiamo cosa dice, saluto e ringrazio, il direttore Savia Iacobelli dalla poltronissima di calciomercato.com. Ciao direttore. Buongiorno a voi e buongiorno agli amici ascoltatori. Allora, dammi una tua lettura invece, ne abbiamo parlato per un'ora ma continuiamo a farlo, di questa storia. Io ho detto in apertura, mi sembra la strada più scivolosa questa del prolungamento senza tutto sto entusiasmo tra Conte e la Juve. Ma guarda, io penso che in questi giorni, in queste settimane, Conte e la Juve abbiamo cercato di parlare la stessa lingua usando toni diversi, partendo da un presupposto che è una constatazione dei fatti, e cioè Conte sa benissimo che avere spremuto come limoni i suoi giocatori in questi tre anni, altrimenti questi tre scudetti di fila, le due supercoppe di Lega consecutive, il record di 102 punti e tutto l'altro battaglione di primati che ha demolito un passo dopo l'altro non sarebbero mai stati possibili. Ora lui sa bene che nella prossima stagione l'obiettivo della Juventus non è lo scudetto, il quarto consecutivo, può anche essere quello, ma soprattutto la Champions League, arrivare oltre la fase a gironi, possibilmente oltre gli ottavi, magari nei quarti, a vedere quello che accade. Per fare questo ha bisogno di grandi giocatori, ma per prendere grandi giocatori, la Juventus, che il 31 marzo scorso ha licenziato il bilancio intermedio, che ha visto un incremento delle spese e dell'indebitamento per la campagna acquisti, gli ha risposto: cercheremo di accontentarti, ma non aspettarti grandi cose, a meno che non si sacrifichi un pezzo da 90, Pogba o Vidal. Non ci sono alternative. No, io ho detto molte volte che in questi giorni si parla di questo. Sarebbe molto più saggio, probabilmente, se devi fare questo tipo di operazione, eventualmente privarsi di Vidal, che è un giocatore all'apice della carriera. Cioè, non penso possa fare più di questo. È un centrocampista completo, segna 20 gol a stagione. Però in questo momento all'apice della carriera, se dovessi scegliere tra uno o l'altro, proverei a tenermi Pogba, che ha margini di crescita enormemente superiori. Io su questo sono d'accordo. C'è un altro, come dire, fattore da tenere presente, si chiama Atletico Madrid. Nel momento in cui Simeone vince la Liga e si prepara a disputare la finale di Coppa dei Campioni a Lisbona con il Real Madrid, e l'Atletico è al 20° posto della classifica dei fatturati dei principali club europei, è chiaro che Marotta e soprattutto Agnelli ed Elkan hanno gioco facile a dire a Conte: ma com'è che questi hanno ottenuto questi risultati e noi siamo usciti nella fase a gironi per mano del Galatasaray, dopo una serie di pareggi iniziali che hanno pesato come zavorra sul seguito, perché non siamo riusciti ad arrivare in finale di Europa League? E quindi questo chiama in causa ovviamente anche l'inevitabile scotto pagato da Conte in ambito europeo. Quindi diciamo che le ragioni di torti, o comunque le ragioni, sono sia dall'una sia dall'altra parte. Conte lavorerà ancora quest'anno alla guida della Juve, ma secondo me tutto si capirà molto meglio al termine del mercato estivo. Sì. Senti, direttore, faccio appello al tuo talento da grande cronista, quale sei sempre stato. Ma la Juventus e Conte, primo, si amano ancora? Secondo, prima con Federico Ferri si diceva: ho l'impressione che dietro a questo strano sviluppo, no? Soltanto un tweet, luogo segreto, niente foto, insomma, c'è qualcosa che non torna in questa vicenda. Ma guarda, sul mercato non bisogna mai stupirsi di nulla, è la prima regola non scritta e mai dire mai. Francamente tutta questa coreografia mi sembra stucchevole, nel senso che mi risulta curioso pensare che Conte, Elkan, Agnelli, Paratici, Marotta abbiano bisogno di tutto questo schieramento cinematografico parlarsi. No, in realtà credo che volessero dare un segnale forte alla tifoseria, lo hanno dato dopo i festeggiamenti per il terzo scudetto consecutivo, però ripeto, si capiranno molte cose il 31 di agosto, forse anche prima. Un'altra cosa, non riguarda la Juventus ma il Milan, anche qui c'è una vicenda tutta da chiarire. Dopo le europee, si sa, Berlusconi dovrà dirimere la controversia. Rimbalza quella qualche frase che avrebbe detto Berlusconi, ad esempio: credo che dovrò tenermi questo allenatore, l'ho letta da qualche parte, avrebbe confidato ai soliti amici. Anche qui una situazione che ha qualche punto in comune con quello della Juventus. Sì, però è decisamente peggiore. Io ti dico, in 28 anni di gestione berlusconiana non ho mai visto una cosa del genere. Sì. Non sta né in cielo né in terra. C'è uno stato confusionale ai vertici del Milan che fa paura, perché c'è una lotta di potere in atto fra Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, al di là delle frasi, del fatto che di prammatica, del fatto che Barbara Berlusconi si sia commossa vedendo Galliani commosso all'inaugurazione del museo bellissimo del Milan. A proposito di cinematografia, no? Sì, no, ma la realtà è molto semplice, che il Milan ha preso, per volere di Silvio Berlusconi, Seedorf nel gennaio scorso, catapultandolo dal campo del Botafogo alla panchina rossonera. Seedorf ha totalizzato 35 punti nel girone di ritorno, soltanto Garcia e Conte hanno fatto meglio di lui. Seedorf non è stato messo in condizione di lavorare perché ha subito un trattamento in verecondo, critiche, battute, fuori onda, di tutto e di peggio. Quindi, secondo me, se Dorfman merita di continuare ad allenare il Milan. Piccolo particolare, ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo da 10 milioni di euro lordi. Il Milan non si può permettere di sostenere anche questo onere, a meno che non lo faccia personalmente Silvio Berlusconi. Quindi allenerà il Milan ancora per l'anno prossimo? Ah, questo, ecco. Poi anche questo fatto che... Cioè, sul fatto che meriterebbe sono d'accordo, penso che non ci siano discussioni, perché questa vicenda non la leggi con i risultati sul campo. No, ma va, figurati. Ma soprattutto qui anche il fatto che si decida tutto il 26 maggio, francamente, fa sorridere molto. Sì. Quindi, ma chi comanda il Milan? Ah, Silvio Berlusconi. Sì. Però c'è un piccolo particolare, che non segue più il Milan. Sì, infatti, altrimenti Sedor, che ha scelto lui, non sarebbe lì a dire me ne vado. Non me ne vado. Un'ultima cosa invece sull'Inter, domani parla Mazzarri. Anche in questo caso la sensazione finale che rimane quella di un matrimonio, sì, che va avanti ma non solidissimo, quasi di interesse. Sono d'accordo con te, è di interesse soprattutto, con tutto il rispetto ovviamente per Mazzarri, perché esonerare lui e il suo staff costerebbe uno sproposito a Torino, e in questo momento non se lo può permettere. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Un abbraccio, grazie a Savia Iacobelli. Altra notizia, dunque adesso è ufficiale perché è in corso la conferenza stampa di Guidolin. L'Udinese, quella sì, avrà un nuovo allenatore per la prossima stagione, perché Guidolin lascia l'incarico da allenatore per mettersi la giacca, lo ha detto lui, del supervisore tecnico. Ha detto: guarda, mi sono messo anche la giacca oggi, cosa che fa raramente, non mi ricordo di aver visto Guidolin in giacca in panchina una sola volta in carriera, di solito con le polo colorate. Vabbè, comunque ha detto: mi metto la giacca perché questo è il mio nuovo abito, il mio nuovo status, farò dire supervisore tecnico. Chi sarà l'allenatore dell'Udinese? Mi dice Franco Piantanida, Del Neri in pole position per allenare l'Udinese la prossima stagione con Guidolin, supervisore tecnico. Bene. Roberto da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Niente, io volevo parlare ancora della Juventus. Io invece penso che sia una buona occasione sia per la Juventus che per Conte stesso di fare un salto di qualità, quindi premiare più verso la Champions League che il campionato. Sì, questo è evidente. Come è evidente il fatto che la Juventus non potrà competere a livello economico con le solite note, come è evidente il discorso dell'Atletico Madrid. Ieri lo abbiamo fatto per, curiosamente in questa stagione succedono queste cose, per il Maccabi che ha vinto la Coppa dei Campioni, l'Eurolega della pallacanestro. Evidentemente è una stagione che non premia gli straricchi ma quelli bravi. Sono discorsi da tenere in considerazione tutti quanti, però se hai ragione tu, Roberto da Reggio Emilia, allora perché non si dice: benissimo, allora allunghiamo il contratto, facciamo davvero un progetto per il futuro? Dicevo prima, la Juventus ormai fa piani industriali quinquennali, molto lungimirante da questo punto di vista, allora perché non fare le cose in maniera completa e compiuta se c'è ancora unità di vedute, comunione di intenti, eccetera eccetera, si prolunga il contratto dell'allenatore, si dice: signori, questo è il nostro allenatore per l'anno prossimo e per i 2, 3, 4, 5 mille che arriveranno, e insieme faremo il mercato, insieme definiremo gli obiettivi in una totale unità di intenti. È questo che manca, è questo il tassello mancante secondo me. Roberto da Savona in questo caso. Pronto? Pronto, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, grazie della convocazione. Allora, io volevo entrare nell'argomento Bari. Sì, volentieri. Mi viene da ridere e non mi interessa niente avere la tua maglietta, lo metto già perché ormai tutti chiamano perché vogliono, aspirano ad avere questa maglietta. Fa niente, io sono contento già di ascoltarvi, mi va bene così. Molto ambita, sì, lo so. Sì, ma ci credo, per carità, la lascio agli altri, va bene così. Però io, quello che veramente mi fa pensare è Paparetta che diventerà, così almeno quanto si è capito, no? Il nuovo acquirente, o poi magari domani diventerà anche direttore, diventerà presidente, non lo so, qualsiasi cosa diventerà, e mi fa pensare un po' dietro, un po' al calcio, scommesse e tutto, eccetera. Questo è il calcio, questa è la cosa bellissima, questo è il calcio. Cioè, uno esce dalla porta, no? Come si dice, e rientra, non dalla finestra, non so dove rientra, dalla Baino, non so da quale parte. Sì, perché però... sono rimasto senza parole, senza parole. Sì. Detto questo, sono genuano, felicissimo di essere genuano, soddisfattissimo della nostra classifica. E poi dico un'altra cosa per finire: la storia famosa di Napoli, la finale di Coppa Italia, bla bla bla bla bla bla bla, bla. E mi auguro che Gennaro, io non lo chiamo Gennaro Carogna perché non ho la confidenza di chiamarlo Gennaro Carogna, lo chiamo Gennaro cognome, non mi ricordo come si chiama. Mi auguro che verrà, come si dice, riammesso allo stadio, perché comunque è stato una violazione da parte dello Stato, mettiamolo così, perché l'ha chiamato giù e tutto un po' gli ha dato un incarico che lui comunque, come responsabile della gradinata, aveva già in mano, senza bisogno di Stato o contro Stato. Riguardo alla maglietta, è una cosa vergognosa dargli un daspo per una maglietta, perché allo sto punto metto anch'io la maglietta a scagliola, libero, e voglio vedere cosa mi succede a sto punto qua. Lo so che la mia è una grande provocazione, sì, ma comunque abbastanza. Bisogna farla, sì, no, però Roberto, il problema di questa storia qua. Sì, però secondo il problema che non è che avesse quel ruolo e gli è stata data un'eccessiva importanza quasi violando i suoi diritti. Il problema è che nel nostro paese gli ultra si prendono un centro della scena che non compete loro. Ad esempio, leggo oggi sui giornali Arresto Basito di Guaraldi, del presidente del Bologna, che ieri si è presentato, avrete letto la notizia, si è presentato un colloquio con Zanetti, signor Segafredo, che dovrebbe insomma rilevare tutta quella montagna di debiti, è già stato presidente del Bologna Zanetti, poi la vicenda è finita male, eccetera. Beh, colloquio con tra Guaraldi e Zanetti, Guaraldi si presenta con un tizio vestito in giacca e cravatta, presentandolo come suo collaboratore di fiducia, invece questo era un capo degli ultra. Cioè siamo arrivati al punto in cui gli ultra entrano addirittura nelle trattative private tra personaggi che discutono del futuro di un club storico come il Bologna. Quindi il problema vero è che gli ultra si prendono appunto si prendono dei diritti di protagonismo, dei diritti di partecipazione al gioco che non in un posto normale non dovrebbero competere a uno spettatore del calcio, di uno sport. Maurizio da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo precisare una cosa. Sì. Io sono tifoso del Milan. Sì. È brutto, secondo me, lei sicuramente poi non è d'accordo, perché abbiamo già parlato di queste cose. È brutto essere convinti di capire di pallone e avere il potere di fare quello che si vuole e non capire niente. È brutto, no? E parlo di Berlusconi, idem Galliani, sono due persone normalissime. Io sono convinto che a me mi piacerebbe partire da zero, dare in mano 50 milioni a lei e 50 milioni a Berlusconi. Secondo me lei fa meglio di Berlusconi. Ma non lo so, no, credo di no. E non c'entrano ma, i soldi. Ma no, però Maurizio, mi sembra che Berlusconi qualcosina abbia fatto, che Berlusconi e Galliani qualcosina abbiano fatto, qualcosina abbiano vinto con il Milan, no? Cioè, mi sembra un pochino ingeneroso anche alla luce della storia recente, se non vuol dire la cronaca. No, ma non è così. È arrivato al Milan, ha avuto la fortuna di trovarsi lì Barisi, Maldini, cresciuti al vivaio. Si è innamorato di Guri per le trecce, per lo spettacolo, gli ha tirato dietro Van Basten. Rijkaard non lo voleva, era il giocatore che piace a me, Rijkaard. L'ha voluto a tutti i costi Borghi. Ha comprato chi? Dopo voi gli ha dato la Juve con i soldi, gli ha portato via la Juve. Poi si è innamorato di chi? Beh, Serchenko, a me uno che mi prende Taivo, Taore, Kakà, cioè cacando Taivo, Taore, però lapsus. È da prendere e portare lì da voi a fare la trasmissione, basta. No, va bene, questo è il suo punto di vista, diverso dal mio, perché il mio, quello che ho detto, insomma, non può essere, cioè vincere per 20 anni non può essere, quello che ha vinto il Milan non può essere né soltanto una questione di soldi, né soltanto una questione di culo. Secondo me sono stati, bisogna ammetterlo, anche molto bravi al Milan, Galliani, Bride e tutti quelli che hanno guidato il vapore negli ultimi anni. Convocati. Penso che ci sia della buona qualità, Cesare sta lavorando benissimo, lo ha fatto in tutti questi anni, per cui sono sicuro che farà molto bene. L'Italia ha sempre avuto la possibilità di tirare fuori una sorpresa, mi auguro che sia così anche per questo mondiale, però insomma ci sono giocatori di grande esperienza, questo è molto importante in un mondiale. We'll be right back. Io mi auguro che faccia qualcosa di meglio di Baggio, anche perché ha le qualità per farlo. Tutti si aspettano delle grandi cose da lui. Io credo che Mario abbia solo da capire le grandi potenzialità che ha veramente. Poi per il resto va tutto in discesa. Questo Roberto Baggio sulla nazionale, sulle prospettive di Mario Balotelli, ha parlato ieri sera. Però volevo farvi sentire invece, che questa invece è cronaca, volevo farvi sentire le parole. Cruciani mi fa le corna dalla porta. Perché mi fai le corna? Perché? Cosa significano le corna? Niente, non significano niente, semplicemente mi fa le corna dalla porta, sbucando dalla porta. Papà Resta ha comprato il Bari, Cruciani. Beh, sono emozionato. Sei emozionato? Eh beh, 4,8 milioni di euro, potevi comprarlo anche tu. Data di lusso? Magari anche in Serie A. Cordata di russi, vabbè, me lo dici dopo. Cordata di russi, dice Giuseppe Cruciani dalla porta. Io vi faccio sentire invece Papà Resta. Merita questa città, questi tifosi, quindi meritano tutti. Il progetto è quello che mi avevi dato in quella famosa intervista che ha scatenato pure. Troppo. Però adesso è quello il progetto. Il progetto è. Grande Bari, no? Scusatemi. Una battuta, dai. Una battuta è solo che si sta facendo questo progetto importante per una città importante, una tifoseria che sta dimostrando in Serie B numeri incredibili, una squadra eccellente, preparata in maniera eccellente, allenata da professionisti seri e preparati, il direttore sportivo che ha lavorato benissimo, tutti molto bravi, quindi complimenti a tutti e continuate così, sicuramente adesso dobbiamo continuare e procedere su questa stessa linea. Come questo Gianluca Paparesta, ripeto, notizia di corridoio, di portone, che era lì sulla porta. Cruciani mi dice cordata di russi alle spalle di Paparesta, vediamo se ha ragione. Io ve la vendo così come l'ho sentito un secondo fa dalla porta a vetri dello studio. Quanto, tornando all'ascoltatore di prima, è chiaro che è fin troppo semplicistico, se vogliamo, sbagliato dunque accostare Paparesta a quella storia di Moggi, adesso gli danno le chiavi, sì, ma quelle dello spogliatoio e con che soldi ha preso, insomma. Paparesta stesso, ma anche a questi microfoni, ha smentito quell'episodio di Reggio Calabria e che non è mai stato confermato, ci sono degli atti, dei procedimenti per cui che sono lì da leggere, dunque mi sembra anche un po' inutile stare a rivangare queste storie che fanno parte della leggenda, se vogliamo, del racconto di un'epoca passata. Cycling. Yes. Pieragusto Stagi, ciao. Ciao Carlo. Senti, buon pomeriggio a tutti. Mi chiede Franco Piantanida di domandarti se Ulissi è contento per il fatto che Conte è rimasto alla Juventus e quindi adesso è più sereno e magari oggi vince la tappa. Allora, sereno, molto contento. Ci siamo messaggiati ieri sera, non è una bugia, ero a cena con chi sei tu, con i miei due soci sì. Del giro. Il gatto e la volpe. Angelo, esatto, che sono Gatti e Angelo Costa, che mi accompagnano come dei badanti da anni. E a un certo punto mi è arrivato un messaggino che ho ufficializzato il contratto da parte di Antonio, l'ho girato a Diego Ulissi e da lì in poi per circa mezz'ora siamo rimasti in collegamento via WhatsApp, sì. E abbiamo così fatto un po' gli ultra, sì. È una cosa che ci accomuna. Beh, ma siete contenti, però io, come ho detto prima, il messaggio vero è che Conte va via, magari tra un anno, ma va via, cioè è già andato via. Ma no, dai, non infatti. Di calcio, cioè, mi occupo di biciclette. Cosa però, succede con le biciclette? Però? Però, dai, magari il prossimo anno c'è ancora qualche mese per lavorare, non è detto. Sì. Però tu sai com'è con gli allenatori in scadenza, cioè sai già che poi un allenatore che ti tiene sulla corda, che ti chiede lacrime e sangue sempre, comunque, come Conte, sai che è in scadenza, insomma, questa vicenda va chiarita o va letta magari in un'altra maniera. Leggiamo invece il giro di oggi. Ieri hai fatto vacanza, oggi torna a lavorare, si arriva a Salso Maggiore, volata. Facile da prevedere, sì, volata, purtroppo Elia Viviani, che è uno dei nostri uomini veloci, non sta bene, è partito con la febbre, quindi speriamo che tenga duro più che altro per le prossime volate a venire. Oggi ci proverà Giacomo Nizzolo, che invece lui è assolutamente deciso a lottare per la maglia rossa, che la maglia rossa è praticamente il Giro d'Italia dei velocisti, quello che premia i corridori veloci. È un duello tra lui e Buanni, e speriamo che Nizzolo riesca alla terza volata a vincere finalmente questa tappa, che non è ancora riuscito a centrare. Ha ottenuto due secondi posti molto belli, molto importanti, che fanno morale ma fanno anche un po' rabbia. Stamattina ho parlato con lui, lui è determinato e convinto di poter battere il francese, il campione di Francia. E allora sarà questo duello tra loro due, che sono gli uomini più attesi, quelli che mi sembra stiano meglio proprio a livello proprio anche fisico, sì. Non hanno acciacchi e moralmente sono quelli più carichi. Benissimo, allora alle 18, dopo il genere delle 18, risentiamo Piero Augusto Stagi, che ci racconterà com'è andata la tappa di oggi, e vedremo se avrà indovinato la previsione. Ciao Piero Augusto, a dopo. Okay, ciao. Intanto altra notizia che arriva, anche in questo caso serviva la comunicazione ufficiale, che è puntualmente arrivata, riguardo al Monaco. Il vicepresidente del Monaco ha detto: bene, Ranieri via, non proseguiremo questo rapporto, dunque ufficialmente Ranieri non è più allenatore del Monaco. Adesso si attende l'annuncio di un nuovo allenatore, che dovrebbe essere portoghese, Jardel. Carlo, provincia di Alessandria, buongiorno. Carlo? Luca, provincia di Perugia. Pronto. Pronto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dica. Mi rifacevo proprio al ragionamento su Conte, sul proseguo della continuazione contrattuale. Io sono d'accordo, credo che effettivamente tenerlo per un anno rappresenti poco. Consoliderà, lo dico da vecchio romanista, ormai una decisione, che è quella per cui l'aiuto Non ha mentalità e non ha forza per vincere in Europa. È una soddisfazione per un romanista che rimane sempre abbastanza latente, ma poi si fa... Cioè la soddisfazione è che la Juventus comunque in Europa le busca, è questa soddisfazione, dice. È un dato storico. Sì, che non abbia particolare vocazione europea, sì, è un dato storico, che ha ricevuto diverse conferme, diverse smentite anche. No, diverse smentite no, in percentuale, considerando che ha vinto 30 euro di scudetto, le smentite sono state veramente ridotte all'unicino. Detto questo, però, non significa che quest'anno non abbia... tutto sommato meritato per il roster e per come è andato il campionato, attenzione. No, è meritato, sì. Si diceva anche ieri, insomma, 102 punti. Al di là del fatto che poi non ho ancora capito bene se era parlato a un certo punto del premio 100 punti, non so come sia la storia a questo punto, se davvero la Juventus, a un certo punto è uscita la notizia per cui la Juventus avrebbe messo il premio sul raggiungimento di 100 punti e non sulla vittoria in Europa League. Non so se le cose siano andate davvero in questa maniera, ma quello sarebbe stato davvero paradossale, no Luca? Certo, che lo dico anche da vecchio dirigente sportivo, è comunque una meta ambitissima quella dei 100 punti. La diversificazione mi vede d'accordo, però il premio per i 100 punti sicuramente se lo riportano a casa con grande... Sono sicuro di te. Sì, vabbè, certamente è un traguardo storico, è un traguardo, come dice Buffon, non verrà mai superato, eccetera, va bene tutto, però è un traguardo, perdonatemi, statistico, no? Cioè, io fossi stato un tifoso della Juventus avrei detto va bene, 100 punti o 98, l'importante è portare a casa lo scudetto. Più dei 100 punti o dei 102 o dei 150 mi interesserebbe alzare quella coppa, che invece è finita nelle mani del Siviglia. Tra l'altro Siviglia, che per chi non se lo ricordasse è stato riammesso all'Europa League l'anno scorso per una vicenda simile a quella ancora non chiara e non chiarita del tutto del Parma, che come avrete letto oggi sui giornali rischia di non partecipare a una competizione che si è guadagnato sul campo per una storia di IRPEF non pagata di 300.000 euro. C'è questa pendenza per cui la Federcalcio in secondo grado di giudizio non ha concesso al Parma la licenza europea. Ma a Parma sono fiduciosi e promettono lunghe battaglie pur di partecipare alla, alla competizione, però esiste un precedente che insomma è lì da vedere, no? Siviglia ha riammesso l'anno scorso per questioni simili al posto di Raco Vallecano, e Siviglia che ha vinto, come, come sapete, una settimana fa questa Coppa a Torino. Non so se i Granata interpretano questo come, come buon auspicio. È chiaro che se il Parma, se venisse confermata l'esclusione del Parma, sarebbe il Torino ad andare in Europa League, asciugando tutte le lacrime che di Cerci che hanno bagnato il campo di Firenze. Tutti convocati. Lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha. O lepo, lepo. Martedì 15.47, torniamo a parlare di mondiali, Tardelli Time, ciao Sara. Ciao, sono sempre qui. Sei come sempre... stai? Molto bene, in questo bene. Scambio culturale con Mix 24, Sara Tardelli che... Tanta roba, tanta roba. Tanta roba, senti, ma cosa succede in Inghilterra? Allora, intorno in Inghilterra... al povero Roy Hodgson. Hodgson, che... Povero non direi. Oh, mi vogliono dar la badante, dai. Hodgson, sì, la babysitter. Hanno il Sun propone di trovare una babysitter per la nazionale inglese perché Hodgson ha convocato ben 8 giocatori under 24. Capito? E quindi lo prendono in giro su questa cosa, povero Hodgson. Ma la cosa che invece a me preoccupa è che Hodgson ha deciso, come saprai, di non far andare le Wax a Miami. Le Wax sono le mogli e le fidanzate dei giocatori della nazionale. Ma come inglese. Si permette Hodgson di farlo? Ti rendi conto? Poi a Miami. Sì, no, ma è inconcepibile. È inconcepibile, quindi, esatto, adesso dobbiamo tenerle d'occhio queste Wax, perché secondo me si arrabbiano e qualcosa faranno, anche perché se ti ricordi quando erano capitanate da Victoria Beckham, fare le Wax non era solo così un modo di far passare il tempo, cioè queste avevano dei contratti con le case di moda, quindi quando tu le vedevi fotografate con la borsettina di una marca o la scarpina in vista di un'altra, loro monetizzavano. Sì, due proverbi vengono in mente, accanisce un effesso è uno, e l'altro che sai anche tu è quando il gatto non c'è i topi ballano. Esatto, i topi inglesi ballano parecchio, perché lo sappiamo, anche questo fa parte della storia, della leggenda, no? Sì, poi in Inghilterra, come in Irlanda, hanno anche un modo di vedere il calcio, di viverlo un po' diverso i giocatori. Per esempio, se una donna, una compagna partorisce, loro mica giocano. Sì. Sì, vanno in ospedale, qui in Italia sarebbe impensabile, quindi capisci che lasciare le mogli a casa è una questione molto delicata. Ma quando sei, tu quando sei nata tu? Ma scusami, Carlo, dimmi solo, non voglio sapere l'anno, il giorno. Allora, mondiali in Messico. Mondiali in Messico o in Argentina, Messico, non Argentina, mi ricordo invece, più una Messico-Argentina, cioè una era 70 e l'altra era 78, cioè c'è un po' 78 78 giuro che non ho barato, non è 68 e papà ha giocato o non ha giocato? Papà ha giocato, sì. Però io ero nella pancia, quindi non ti so bene dire come si trovava. Bisogna chiederlo a lui. Altre cose? A lui. Ti vorrei far sentire, io questa mania di farti le sorprese, un Lino Banfi dannata, proprio perché da Mix 24 arriva tanta roba, che si trovava proprio al Maracanà e cercava di fare una telefonata. Italia? Con la mia mujer, Maracanà. Ma você está al Maracanã e quiere falar con Maracanã a Italia? Sì, già supponeto che c'è. Ma come spiegare a você? Prima di sposarla, mia mujer, quando era signorita, si chiamava Mara la Grasta. Después sposato con Mick, no? Poi sposato, ha preso il mio cognome come... si chiama Maracanã. non è stadio, Maracanã nombre e cognome, capito adesso? Me disculpo, ma non comprendo. E lo so, me disculpo, io mezz'ora che mi disculpo, mica mi ha ammazzato qualcuno, signorita, perché mi devo sempre disculpare? Questa è la sua memoria. È divertente. Quella di Maracanã è storica, bisogna ripassare per questi mondiali. Senti, perché ti tiro fuori questa cosa? Perché la FIFA aveva fatto, diciamo, un concorso aperto a tutto il mondo per tutti quelli che volessero partecipare ai mondiali in qualità di volontari, ok? Con anche colloqui via Skype. E ti devo dire che io ho un po' rosicato, perché ho detto, caspita, se lo sapevo lo facevo anch'io. Ed è richiesto ovviamente la conoscenza dell'inglese e dello spagnolo, quindi non vi preoccupate, se dovete fare una telefonata adesso vi capiranno, una lingua la troveranno in comune. Ma Carlo, pensa che bello se uno dei tuoi ascoltatori, di tutti i convocati, fosse un futuro volontario del Brasile. Sì, proviamo a chiederlo. Magari c'è Roberto da Padova che è in linea. Roberto, buongiorno. Prova a sentire. Roberto? Sì. Va a fare volontari ai mondiali, non credo. Magari ci andrebbe volentieri. Bello. Sì? Sì, sì, ci andrei. Allora si può fare la richiesta. I termini sono aperti, Sara? No, stanno facendo il colloquio finale. Allora se ne parla per i mondiali di Russia. Non è attraente come Brasile, però se ne parla tra 4 anni. Roberto, dica. No, niente, io volevo intervenire per il Giro d'Italia, no? Che io sono un ciclista da anni e anni e anni, non solo 40 anni, ma ho cominciato a correre molto presto. E quello che vedo, che rispetto agli anni passati, dove noi dominavamo giri classiche, eccetera, eccetera, dobbiamo sempre un po' piangere, dobbiamo sempre vedere gli altri vincere. Secondo me la differenza sta nel fatto che noi non abbiamo più curato il settore pista. Pista, sì. Ma insomma, non abbiamo più curato il settore pista, non so se la ragione sia proprio quella. Certamente c'è una crisi di vocazioni e soprattutto una profonda crisi di talenti, o possiamo dire le solite cose, siamo in un momento di transizione, di passaggio, eccetera eccetera. Qualche scintilla si vede, ad esempio c'è questo Fabio Aru che a me ispira. Poi spero più che altro che i giovani mettano sulla loro faccia di tolla migliore, perché sono stufo di ragionierini. Mi piacerebbe vedere qualche corridore che magari diventa anche un po' disubbediente agli ordini dei capitani stranieri delle scuderie. Sara, ciao! Devo chiudere. Carlo. Abbiamo il migliore in campo di oggi, qui regaliamo la maglietta. Prima o poi riesco a recuperarne una anche per me e per te. Sentiamo chi vediamo. È. Sentiamo chi è oggi. Alessandro Bologna, buongiorno. Sì, salve. Saluti anche al barbiere di Pardo. Anche sarebbe il mio lavoro da fare, a giudicare dal look. Cosa hai detto? Che io? No, a giudicare dal look. Chi ha detto a giudicare dal look? Alessandro? Io ho detto saluti al barbiere di Pardo. Ma ha ragione, è un'impresa di lavoro da fare. Sboscamento. A giudicare dal look di ieri sera. No, vabbè, comunque io sono juventino e sono felicissimo che Conte resti. E per il rinnovo si vedrà se tempo. Guarda là, per esempio, diceva che non c'erano i tempi tecnici, comunque si vedrà, vabbè, c'è ancora tempo per farlo volendo, se non è ancora deciso. E penso che la stragrande maggioranza degli juventini, a sentire dal mood, la pensi come me. Più che altro mi sembra che ci sia così un po' di sottile rosichio così da parte degli altri, che magari speravano arrivasse alla Juve, non so, uno Spalletti qualunque, personaggio così. E dunque, portavoce dei tifosi juventini di oggi, il nostro ascoltatore di migliore in campo di giornata. Ci fermiamo qui, ragazzi. Franco Piantanini, da nostro autore, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo naturalmente domani dopo il GR delle 14. Ciao.